Van Loon. Dialogando di storia, qualcosa ne verrà fuori. Ciao a tutte e tutti da Frey, ben ritrovati su Van Loon, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio che vi conduce, come tutte le settimane, alla scoperta della storia e delle storie attraverso vari canali. Quindi storiografia, ma anche musica, documenti, documentari come abbiamo visto qualche settimana fa e naturalmente letteratura, una delle grandi nostre passioni. Letteratura che decliniamo in tanti linguaggi, soprattutto quello della letteratura popolare, diciamo, adesso vedremo un po' meglio. Di letteratura e di storia andiamo a parlare anche questo fine settimana con un ospite studio molto gradito che è Alberto Sebastiani. Ciao Alberto. Ciao, ciao Jacopo, ciao, saluti tutti gli ascoltatori. Allora, Alberto, per chi ha buona memoria, è stato ospite con noi l'anno scorso, direi, per il suo libro che aveva dedicato a Stefano Tassinari. E Alberto Sebastiani è pubblicista, insegnante, ricercatore, collabora con l'Università di Bologna, scrive molto spesso sulle pagine locali della Repubblica e anche le pagine nazionali, e lo abbiamo invitato in studio con noi per presentare la sua ultima fatica editoriale. Nicola Seimerich, il lettore e l'immaginario in Valerio Evangelisti, edito da pochissimo qua negli ultimi mesi del 2018 da Odoia. Allora, cerchiamo di entrare subito con Alberto all'interno di questo libro. Questo libro va a raccontare, e adesso vedremo come, un gigante della letteratura sia italiana ma soprattutto bolognese, un personaggio noto ai più, un personaggio che questo secondo me è molto interessante, che può venire scoperto da tante parti, nel senso che c'è il Valerio Evangelisti, scrittore di letteratura popolare, diciamo, c'è il Valerio Evangelisti storico e il Valerio Evangelisti anche militante politico, nel senso qualche anno fa mi era capitato di scoprire una sua testimonianza sia legata alla rivista storica Primo Maggio che un libro dedicato all'autonomia operaia in cui parlava come voce dell'autonomia operaia bolognese. Entriamo però più nel Valerio Evangelisti scrittore, anche se forse non le caratteristiche con cui l'abbiamo presentato non si disperdono mai, soprattutto perché qui entriamo proprio nel libro di Alberto, c'è un qualcosa che tu definisci come one big novel, che secondo me è la maniera con cui Valerio Evangelisti fa dell'attività politica, è la sua maniera di essere militante. Ci puoi spiegare cosa hai inteso con questa espressione? Diciamo che scindere per Valerio Evangelisti discorso politico e narrazione, discorso letterario, è impossibile. Sono strettamente connessi. Quando io parlo di one big novel, parlo del discorso che Valerio Evangelisti costruisce attraverso tutti i suoi romanzi, tutti i suoi cicli. Sappiamo che ce n'è più di uno, insomma, il mio libro ha come fulcro, diciamo, come oggetto principale il ciclo di Emmerich, ma ce ne sono tanti altri: il ciclo americano, il ciclo del sole dell'avvenire, la trilogia dei pirati, insomma. Ci sono molte opere sviluppate in più volumi, ma tutte insieme queste opere affrontano un unico grande discorso e sono un one big novel. Qui parafraso chiaramente, riprendo One Big Union, che è il titolo di uno dei suoi romanzi. E di cosa parla questo one big novel? Ha un discorso comune, che è quello dell'affrontare il conflitto tra chi detiene il potere e chi lo subisce. Tutto questo chiaramente all'interno di un percorso che è anche storico, che vede appunto il trionfo delle politiche, di una logica di politiche legate a un sistema economico ben preciso, che è quello capitalista, che sono le politiche neoliberiste oggi. E lui in questo grande One Big Novel, lui ricostruisce un affresco che attraversa i secoli, dal XIV secolo al XXXII, quindi ci muoviamo dall'ambientazione storica a quella fantascientifica, e va a lavorare proprio non solo su una ricostruzione, non tanto su una ricostruzione realistica delle vicende, quanto su un discorso più profondo che è appunto il centro della sua ricerca, quello politico. Allora, prima di passare alla prossima domanda, ci sentiamo una canzone. Abbiamo scelto un disco dell'anno scorso, ci ascoltiamo i La Furia, una band di Roma che è stata ospite qualche settimana fa a Scheggia, proprio qua a Bologna, e dalla Via del Ronin ci ascoltiamo Guerra al Domani. Guerra a me stesso, al mostro del capitale, a questa folle corsa che chiamano progresso. Guerra al tempo, alle sveglie, al lavoro salariato, ad ogni vostro compromesso. Vivi una città salotto idealizzata per turisti, residenti deportati da quartieri dati in pasta a nuovi ricchi e falsi artisti. Guerra allo Stato, al denaro, al cemento armato, ad ogni sogno confezionato e definito. Fra l'oppresso e l'oppressore c'è un pugnale arrugginito che vi pianteremo in cuore. Guerra alla guerra, morte alla morte, morte al dolore. Guerra agli umani, ai modelli produttivi, ai piani quinquennali, alle macchine, ai motori. Guerra a noi stessi, alle nostre convenzioni, ai bisogni che ci impongono invisibili padroni. Guerra all'asfalto, alla folle produzione, al profitto come moto della nostra evoluzione. Guerra al domani, agli umani dagli umani, per riprendere il presente, riprendere se stessi in una guerra personale. Guerra al concetto che si fa da un punto senza alcuna soluzione. Evoluzione non significa progresso né ragione. La menzogna che ci illude, la speranza che non muore, che muoviamo poi comunque ad un domani migliore. Il progresso non esiste, è solo una finzione. Il progresso non esiste, è solo una finzione. È un'arma per farti ingoiare, digerire rotte precostituite, tracciate dal capitale. Prendendo più di quello che potranno dare, se saccheggiando fino all'ultimo pesce del mare. Una corsa a mille sul binario del benessere, ci illuderanno che non ci sarà una fine. Guerra agli umani, ai modelli produttivi, ai piani quinquennali, alle macchine, ai motori. Guerra a noi stessi, alle nostre convenzioni, ai bisogni che ci impongono invisibili padroni. Guerra all'asfalto, alla folle produzione, approfitto come moto della nostra evoluzione. Guerra al domani, agli umani, dagli umani, per riprendere il presente, riprendere se stessi in una guerra personale. Eccoci, siete sempre sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, siete sempre con Vallone, la vostra mezz'ora di storia del sabato pomeriggio, che oggi è in studio Alberto Sebastiani, che ci sta presentando il suo ultimo libro, Nicholas Eymerich, Il lettore e l'immaginario in Valerio Evangelisti, edito da Odoia nel 2018. Ah, piccola parentesi, abbiamo dimenticato, lo accenniamo subito, poi lo ripeteremo in coda alla puntata. Il libro verrà presentato poi a Bologna la prossima settimana, giusto? Sì, sarà presentato sabato 15 dicembre alla libreria Ernerio Ubica alle ore 12.30, all'ora di pranzo. Un orario un po' insolito, però ci sarà anche un aperitivo alla fine, perché festeggiamo insieme io e Valerio Evangelisti, nel senso che ci sarà già dell'Andretto, già dei Kaizen a presentare me e Valerio, che io presento appunto il mio saggio su Nicholas Eymerich e su Valerio Evangelisti, e Valerio Evangelisti presenta il suo ultimo libro del ciclo di Eymerich, Il fantasma di Eymerich. Ecco, allora entriamo proprio in questo personaggio, che è il personaggio principale, fra virgolette, dell'intera opera di Valerio Evangelisti, quantomeno perché, come giustamente segnali, è il suo personaggio più duraturo, cioè che l'ha accompagnato nel corso di tutta la sua produzione letteraria. Personaggio un po' particolare. È interessante il fatto che tu l'abbia utilizzato come grimaldello per entrare all'interno dell'opera di Valerio Evangelisti, ma è interessante anche come personaggio in quanto tale, nel senso che questa è una mia impressione, ma quello che dico non è assolutamente un elemento di detrimento, ma anzi un vantaggio. Questo libro si presenta anche come una guida per addentrarsi all'interno del ciclo e della saga di Nicholas Eymerich, perché è una saga molto corposa, copre un arco temporale all'interno del tempo della storia, del tempo della narrazione, scusate, molto ampio, e anche in termini di anni di pubblicazione è un periodo molto molto lungo. Chi è Nicholas Eymerich? Nicholas Eymerich come figura storica è un inquisitore effettivamente vissuto nel XIV secolo. Nicholas Eymerich, il personaggio di Valerio Evangelisti, è questo inquisitore che però viene completamente trasformato in una finzione, nonostante abbia con la figura originaria storica molti elementi in comuni, biografici soprattutto. All'interno del ciclo di Evangelisti diventa, e di tutta l'opera di Evangelisti, diventa un archetipo ben preciso, una figura ben precisa, un archetipo del fondamentalismo, un archetipo del totalitarismo, ed è una figura estremamente negativa, violenta, e incarna in sé tutti gli elementi che Valerio Evangelisti all'interno del suo One Big Novel individua come archetipi appunto di queste figure che detengono, perché partecipano al potere reprimendo qualsiasi possibilità di dissenso, o non dico di contestazione, ma semplicemente dissenso. E io appunto in questa guida, come hai detto giustamente tu, una guida critica ovviamente che attraversa tutta l'opera evangelista, chiaramente Nicholas Eymerich non può che essere una figura centrale, è il suo esordio narrativo, perché con Nicholas Eymerich inquisitore vince il premio Urania nel 93 ed esordisce nel 94 appunto per Urania. Da allora, dal 94 ad oggi, sono 13 volumi, e io all'interno del libro faccio vedere come non sono solo i 13 volumi di Eymerich che partecipano alla costruzione del ciclo di Eymerich, questi sono quelli del ciclo canonico, poi c'è tutto il ciclo esteso, diciamo, espanso. Faccio vedere insomma tutti i vari racconti di vari evangelisti, ma anche racconti a cui ha partecipato anche in altri linguaggi come fumetti, radiodrammi, e poi tutta l'estensione ulteriore del fandom o di chi ha lavorato su Eymerich. Allora stiamo parlando di giochi di ruolo, stiamo parlando di videogiochi, stiamo parlando di altri fumetti, stiamo parlando di fanfiction, stiamo parlando di realizzazioni video per il web, e adesso insomma dovrebbe anche arrivare una serie televisiva. Beh sì, si presta, ma secondo te nella serie televisiva si potrebbe, se sei informato, ma anche se no come suggestione, si potrebbe mantenere quel rapporto fra temporalità diverse che è una caratteristica dei libri di Evangelisti? Cioè ricordiamo sempre che nel ciclo di America in particolare sono sempre attivi tre livelli di narrazione. Uno nell'epoca nel 300, nell'epoca in cui Eymerich era collocato, una in grosso modo nel 900 indicativamente, un altro nel futuro. Questo mi rimetto perlomeno ai libri che ho letto io di Evangelisti con protagonista Eymerich. Sì, diciamo che la grammatica dei testi di Eymerich, la struttura è piuttosto ricorrente, sono più livelli temporali, solitamente sono tre, e solitamente c'è appunto XIV secolo, un XX, XXI secolo in parte alternativo, diciamo, e poi c'è soprattutto il futuro ulteriore, che è quello che arriva fino al XXXII secolo. In realtà questi due livelli futuri rispetto al XIV secolo sono un'unica storia, ma a ben vedere è un'unica storia quella che va dal XIV al XXXII secolo. Quindi diciamo che all'interno di ogni singolo romanzo si alternano vicende e personaggi di secoli diversi. e il problema della loro trasposizione c'è, ma è già stato presente sia nei radiodrammi. I radiodrammi hanno privilegiato quasi sempre, scusi, in un caso il livello temporale del XIV secolo, come anche sostanzialmente la fan fiction. Fatto salvo l'episodio video di Marianne Quizzi con Rache, che invece ha privilegiato il livello futuro, andando a lavorare su Rache, che è l'organizzazione nazista o nazi-comunista che in conflitto con Euroforce e con gli Stati Uniti, divisi in tre parti, conseguenza di un conflitto razziale e di un'epidemia avvenuta più o meno nei nostri anni. E a parte quindi questo caso, per il resto si è quasi sempre privilegiato il tempo di Emmerich. Per intenderci, i fumetti, quelli di Zentner e Sala, che sono usciti in Francia, poi tradotti in italiano, sono due adattamenti, uno dei primi due romanzi, Nicolas Emmerich Inquisitore e Del corpo e il sangue di Emmerich. Poi ci sono altri fumetti che hanno creato dei crossover, come con Lazarus Led, sì. Oppure dei fumetti che appunto sono stati scritti anche con sceneggiatura del pugno di Valerio Evangelista. In questo caso ha lavorato solamente sul XIV secolo. Poi ci sono tanti altri aspetti, la fanfiction ha privilegiato il XIV secolo, e alla fine bisognerà vedere adesso se sono stati presi gli accordi per i diritti. Adesso bisognerà vedere cosa farà questa produzione internazionale rispetto ad Emmerich. Chi cosa privilegerà? Sicuramente il personaggio più forte di questi, anche se io amo molto anche Marcus Frullifer, o se amo molto anche gli altri personaggi, trovo fantastico tutto i racconti legati alla Rache. Sicuramente il personaggio più forte resta Nicolas Emmerich, tanto più che è il personaggio a cui si fa riferimento, come faccio vedere all'interno della guida, anche in altri testi di evangelisti. Quindi sono, diciamo che è la figura più forte, il personaggio più forte che sicuramente attraversa One Big Novel. Bene, allora, un ultimo brano, siamo sempre con la Via del Ronin di La Furia di Roma e ci ascoltiamo Spettri. Eccoci, tornati in studio per l'ultima parte di questa nostra chiacchierata con Alberto Sebastiani, che abbiamo invitato in studio per parlarci, ricordiamolo, di Nicolas Emmerich, il lettore, l'immaginario in Valerio Evangelisti, che verrà presentato la settimana prossima, sabato 15, alla libreria Ubic di Via Ernerio, alle ore 12.30. Allora, un'ultima domanda più generale, diciamo. La cosa che colpisce di Valerio Evangelisti, qua io mi allontano un attimo dal personaggio di Nicolas Emmerich e mi rimetto più al discorso che fai sulla One Big Novel. Valerio Evangelisti è uno degli ultimi scrittori, fra virgolette, a confrontarsi con la storia, tentando di fare, qua penso soprattutto al ciclo americano e alla trilogia del Sol dell'Avvenire, con un romanzo collettivo, fra virgolette, che è una via che apparentemente altri scrittori hanno abbandonato. Non lo so, penso, mi viene da pensare anche all'ultimo libro di Wu Ming, in cui c'è la Prolet Cult, in cui c'è una volontà di raccontare un passaggio storico, ma allo stesso tempo deviando dal grande racconto, come poteva essere stato Q, come poteva essere stato anche Manituana. Che rapporto ha Valerio Evangelisti con la narrazione della storia? Allora, Valerio Evangelisti, abbiamo detto che è uno storico e di formazione, e anche insegnato storia, e ha scritto diversi saggi di storia, quindi sicuramente è un appassionato e uno studioso storico. Come di storia, come ho spiegato nel libro, tra le fonti su cui lavora, molte sono storiche, ma è di una storiografia ben precisa, un'impostazione marxista prevalentemente. Quindi una storia di conflitti. Semplifico, perdonate la semplificazione, ma il senso è costruire questi conflitti. E per rispondere sugli altri cicli, riparto da Emmerich. Perché? Perché lui costruisce questo personaggio, lo costruisce nei minimi dettagli, con un dizionario preciso, ricorrente, che riguarda dal suo aspetto fisico al carattere, ma costruisce anche un personaggio complesso, non è una macchietta unica, è un personaggio che compie un suo dinamico, che compie un suo percorso psicologico ben preciso. In tutto questo il lettore è coinvolto, il lettore finisce bene o male per immedesimarsi, è sempre in scena, tutto ciò che viene raccontato è visto attraverso i suoi occhi, e però così facendo il lettore si trova dentro a condividere e a tifare, diciamo, per un personaggio che è un personaggio tremendo, è un assassino senza ombra di dubbio, è un assassino tremendo. Ecco, cosa succede quindi in questo caso? Valerio Evangelisti perché fa immedesimare in questo? Fa immedesimare in questo perché è un estremo pericolo, e fa ragionare proprio su questo. Se allarghiamo appunto l'inquadratura, arriviamo, come dicevi giustamente tu, nel One Big Novel, ci accorgiamo che allora questo personaggio è, come dicevo prima, un archetipo, ma tutta la storia mostra tutta la drammaticità, la tragedia che comporta questo. E però accanto a un personaggio come Emmerich c'è Pantera. Pantera è un altro personaggio amatissimo delle serie di Valerio Evangelisti, ed è un pistolero centroamericano. E cosa fa? Lui è invece un assassino, un a pagamento, un killer, però allo stesso tempo è un killer con un'etica, nel senso che non sopporta che se la prende coi deboli, e quindi è pronto a ribellarsi quando vede questo. E allora da una parte c'è Emmerich, dall'altra c'è Pantera. Pantera è l'archetipo della ribellione, che non accetta ciò che non è accettabile. E non è un caso che Pantera nasca proprio il metallo urlante, cioè uno dei tanti snodi editoriali, diciamo, dei legami tra i cicli di Valerio Evangelisti, che appartiene proprio al ciclo di Emmerich, metallo urlante, che contiene dei racconti, tra i quali quello di Pantera, che appunto porta ad altre storie. Ecco, così facendo Valerio Evangelisti mette in scena due figure, chi reprime e chi si ribella. E sono due le costellazioni di personaggi che sono raccolti attorno in questo One Big Novel, e sono queste due costellazioni costantemente in conflitto tra di loro, e il conflitto non si esaurisce, lo sappiamo bene. Quindi ecco, se io devo rispondere alla tua domanda, credo che questa immagine delle due costellazioni costantemente in conflitto dei suoi personaggi sono quelle di fronte alle quali Valerio Evangelisti mette il suo lettore che deve compiere poi delle scelte. Una volta che chi chiude il libro deve interrogarsi da che parte sto, se poi sceglierà. Bene, con questa domanda impossibile da rispondere, non lo so, forse sarebbe anche facile da rispondere adesso come adesso, ringraziamo Alberto per essere stato con noi e per essere venuto a presentare in radio il suo ultimo libro, ricordiamolo, Nicholas Emmerich, Il lettore e l'immaginario in Valerio Evangelisti, edito da Odoia nel 2018. Per chi volesse fare qualche domanda in più ad Alberto, lo potrà fare direttamente la prossima settimana, sabato 15 dicembre, presso la libreria Ubic di Vernerio alle ore 12.30 e grazie mille. Grazie a te e grazie a tutti gli ascoltatori.